Non lo so se finisce un'epoca, certamente potrebbe cominciarne una nuova con questa sentenza, che secondo me è una sentenza storica, che pone per la prima volta un principio importante, che è la necessità della trasparenza, specialmente nei rapporti con gli enti pubblici e denaro pubblico. In Italia vi sono centinaia di enti locali che non hanno concluso contratti di questo tipo e che non sono mai stati assistiti da tecnici. Dovrebbe insegnare anche l'esempio inglese, perché in Inghilterra per esempio i derivati di fatto sono stati proibiti. In Inghilterra le banche hanno le sedi a Londra, ma in realtà in Inghilterra non fanno nulla. L'Italia è stata, a mio giudizio, una terra di scorribande sotto questo profilo. Perché? Perché c'è una mancata attenzione più in generale da parte dell'autorità. E ripeto, io trovo preoccupante che nessun ente locale sia mai stato assistito da una consulenza adeguata, cioè o da fisici quantistici o da matematici finanziari, che sono gli unici che possono capire questi meccanismi. La legge, sia pure tardi, è intervenuta e ha vietato nuovi contratti. Quello che il pubblico ministero ha sostenuto nella mia persona è che il guadagno vero delle banche è all'inizio, è immediatamente all'atto del contratto. Non ha importanza, in un certo senso, rispetto all'accusa, come si sia svolto nel corso degli anni il contratto di swap. Il guadagno vero all'inizio sono soldi veri ed è un guadagno nascosto. Che tipo di ricadute potrà avere questa sentenza nei rapporti tra enti pubblici e banche? Mi auguro ovviamente una maggiore attenzione da parte degli enti pubblici, una maggiore considerazione degli interessi generali.